Care amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma, brussellando Maribia ai microfoni, vi dà il benvenuto, vi augura un'ottima serata in nostra compagnia. Sono giorni un po' strani, non trovate? C'è questa atmosfera sospesa tra la primavera, l'estate, a volte sembra poi che ritorni ugualmente l'inverno, pare che le quattro stagioni siano insomma ritornate su base quotidiana. Bene, non mi dilungo oltre perché l'ospite di questa sera è un ospite speciale. Dopo tanto tempo, già che come sapete sono molto reticente nel intervistare in lingua francese oppure in lingua inglese, però ho assistito allo spettacolo qualche giorno fa e ne sono veramente rimasta entusiasta. Tra l'altro non conoscevo il regista, non conoscevo tra l'altro le sue qualità, le sue doti anche di scrittore, giornalista, quindi una figura poliedrica che tanti di voi sicuramente già conosceranno. Mi riferisco ad un italo-belga, però nato in Belgio, questo ci tengo a sottolinearlo anch'io per lui, Sébastien Ministro, che la settimana scorsa ha aperto quindi la stagione teatrale con Ciao Ciao Bambino, che è una storia che fa riferimento all'emigrazione italiana in Belgio e non solo, ci sono tanti aspetti, tanti temi di attualità che si ritrovano in questa famiglia che si ritrova intorno ad una veglia funebre e non aggiungo altro. Quindi vi auguro veramente un buon ascolto, vedrete Sébastien parlerà un pochino l'italiano e penso di aver commesso qualche errore, come spesso accade, perché insomma tra l'emozione e quant'altro, anche perché di fronte a una dialettica così bella, insomma, cioè quella di Sébastien, non si può restare che affascinati. Infatti, peccato che poi in radio dobbiamo tagliare quei minuti, perché altrimenti veramente potremmo andare, soprattutto con alcuni di loro, avanti per ore. Quindi, io lascio la parola a Daniele, che saluto dall'altra parte del vetro con un suggerimento musicale, poi ritorniamo con noi, quindi ritornate con me, con Sébastien e Maridì. E Maridì vi augura quindi un'ottima settimana e vi ricorda in particolare due eventi, cioè che l'8 maggio verranno qui, il 9 maggio, scusate, verranno qui a Bruxelles i Sud Sound System, quindi colgo l'occasione anche per salutare i nostri amici di Bait Live. Tra l'altro, per quanti di voi fossero stati domenica sera al Teatro San Michel, la performance di Enrico Brignano, che avevamo anche ricordato la settimana scorsa, è stata effettivamente eccellente. E devo dire la verità, è stato uno show in cui l'italianità viene mostrata sul palcoscenico, ma in maniera divertente, originale, anche in maniera diversa da quelli che possono essere i soliti stereotipi. E poi, sempre in collaborazione con gli amici del Bait Live, a fine maggio invece sarà probabilmente per la prima volta in Belgio, perché non ricordo che sia già stato qui a queste latitudini, Cristiano De André il 29 maggio, quindi proprio alla fine del mese. Nel mezzo invece, come vi ricorderete, ci sarà anche Fiorella Mannoia, che invece va al Cercle Royal. Quindi la musica italiana, questa italianità importante, dirompente, che è in Belgio, e non solo, continua a manifestare quelli che sono i suoi talenti e molto modestamente, brussellando, penso possa annoverarsi a questi. Quindi vi saluto, saluto veramente tutti, poi per la seconda parte della trasmissione vi lascio a Georges Laurent e a Fiordaliso. Un grande grande saluto a tutti, Maridì, Radio Alma, brussellando. Cari amiche, cari amici, quindi eccoci nuovamente qui. Come avevamo detto in apertura, sono molto contenta perché abbiamo in collegamento telefonico Sébastien Ministro, che è un autore, ma non solo di teatro, anche giornalista. Sébastien è di origine italiana, pensate, lui ha origini sarde e siciliano, beato lui, veramente sospeso tra due isole, tra l'altro bellissime, però parleremo in francese. Donc, nous allons changer de langue. Sébastien, je te souhaite la bienvenue à Bruxellando et à Radio Alma. Merci de m'accueillir, en tout cas, c'est très gentil. Sébastien, alors, tu sais, comme je t'avais dit mercredi soir, que moi j'aime toujours connaître un peu les écrivains, les auteurs qui participent à l'émission. Donc, je suis aussi assez curieuse de savoir comment est née ta passion pour l'écriture. La passion pour l'écriture, elle est née très très spontanément quand j'étais enfant, parce que j'étais un enfant plutôt renfermé, plutôt solitaire, et je passais mes journées en fait dans les livres. Et voilà, c'était ma façon à moi de m'évader. Et l'écriture donc a été une chose très importante dans ma vie d'enfant pour pouvoir me construire moi-même, pour construire mon esprit et pour pouvoir imaginer des mondes intérieurs, on va dire. Et puis petit à petit est venue l'envie de, je veux dire, d'abord d'imiter un petit peu ces auteurs et ces journalistes que je lisais. Et puis j'ai eu très spontanément, très rapidement envie d'écrire pour les journaux. J'ai très eu envie de faire d'abord de l'écriture journalistique. Et puis voilà, je me suis lancé dans des études de journaliste, j'ai commencé à travailler comme journaliste, j'ai beaucoup écrit de reportages, et puis l'écriture de fiction, l'écriture de théâtre est venue parce que j'ai commencé à travailler à la radio-télévision belge, à la RTBF, où je faisais des petits billets, des petits billets d'humeur qui faisaient rire les gens, qui faisaient rire les auditeurs. Et moi, je ne savais pas du tout, en fait, que j'étais capable de manier l'écriture humoristique, puisque, en fait, j'écrivais comme je parlais, d'une certaine manière. Je ne me rendais pas bien compte du potentiel humoristique de mes billets. Et puis, il y a la directrice du Théâtre de la Toison d'Or qui écoutait chaque semaine mes émissions et qui a repéré en moi comment vais-je dire? Un talent, on va dire, puisque moi j'ai eu la chance de toujours être repéré par les autres. Les autres savent mieux que moi ce que je sais faire. Voilà. Et c'est Nathalie Huffner, la directrice du théâtre, qui la première fois, la directrice du théâtre de la Toison d'Or, qui la première fois m'a dit, mais tu dois écrire une pièce. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des pièces il y a maintenant 15 ans, quelque chose comme ça. Alors, ce soir nous allons parler de ta pièce théâtrale Ciao Ciao Bambino, qui est une histoire, comme tu dis, en fait, qui fait sourire de la première minute et jusqu'à la fin. Alors, on reste encore un peu dans l'historique parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments, j'imagine, autobiographiques dans cette pièce. Donc, tu as eu du courage, je pense. Donc, comment est née cette comédie Ciao Ciao Bambino? L'idée, elle est venue l'idée, elle est venue très tard, parce que c'est pas une pièce. La pièce, elle est à 90% autobiographique, mais c'est pas une pièce, c'est pas une histoire que j'aurais pu raconter et construire plus tôt. Je crois qu'il fallait une certaine maturité dans mon écriture et dans ma vie d'homme. J'ai 54 ans maintenant. J'avais besoin sans doute de cette maturité pour pouvoir oser parler de ma famille et avoir envie de leur rendre hommage. Alors, j'avais envie de rendre hommage à ma famille avec du côté de mon père sarde et du côté de ma mère sicilienne. Et j'avais aussi envie de rendre hommage à ce que j'appelle mon roman familial, mio romanzo familiale, diciamo così, qui s'inscrit évidemment de façon plus générale dans une histoire plus grande, qui est celle de l'histoire de l'immigration italienne en Belgique. Et donc, c'est avoir cette envie de leur rendre hommage à ces gens qui sont venus ici très tôt pour trouver du travail, en quittant tout dans leur pays d'origine et en essayant de construire, oui, de reconstruire ou de construire quelque chose qui s'approchait un petit peu plus d'un idéal du bonheur, quoi. Donc, voilà. Donc, moi, je suis né en Belgique, sono nato qui in Belgio, lo parlo in italiano, ma però qualche parola la so dire, ma mi manca molto il vocabolario. Donc moi, je suis né ici et j'ai vu, quand j'étais petit, j'ai observé de façon très, très attentive, parce que j'étais assez observateur, j'ai observé que ma famille, elle reproduisait en Belgique des habitudes, des mœurs, des pratiques, des traditions que moi je ne connaissais pas, mais qui venaient évidemment de leur pays d'origine. Et donc voilà, c'est ça qui m'a inspiré vraiment beaucoup. Ce qui m'a inspiré aussi, c'est le fait que j'ai vu toutes ces traditions qui frôlaient parfois évidemment les superstitions, et que dans le fond, je les observais de l'extérieur, et elles me faisaient toujours un petit peu sourire, elles me faisaient toujours un petit peu rire. D'où le fait qu'à un moment donné, je me suis dit, maintenant, on peut y aller, je peux leur rendre hommage, ils comprendront ce que je veux leur dire, avec le sourire, puisqu'il n'est jamais question, évidemment, de moquerie dans la pièce, il est toujours question de sourire, mais de faire passer un message de tendresse, évidemment. C'est clair, non, on a dit en fait qu'il s'agit d'une comédie, mais c'est une comédie où il y a pas mal de thèmes assez importants qui concernent pas seulement la communauté italienne en Belgique, mais aussi d'autres thèmes, j'oserais dire aussi, d'actualité. On parle de l'intégration, on parle des questions linguistiques, il y a un passage en fait dans ta pièce où tu as en fait reproduit une scène, je pense, de ta vie d'étudiant. Où, voilà, donc il y a des éléments en fait qui représentent l'italianité en Belgique. Tu dis aussi à un moment donné, nous avons appris aux Belges à leur faire mettre les chaussures. Tu dis quelque chose comme ça, une phrase pareille. Donc, oui, parce que tout ça, ce sont des petites légendes que moi j'entendais dans ma famille et qui étaient colportées par exemple ma grand-mère. Ma grand-mère, elle disait des choses énormes. Comme par exemple, c'est nous les Italiens qui avons appris aux Belges à mettre des chaussures, oui, comme voilà. Si les Belges ne connaissaient pas les chaussures avant. Hein. Et donc, c'est toutes des petites légendes comme ça. Elle expliquait que quand elle est arrivée dans le village dans lequel elle est arrivée, qui s'appelle Flénu, dans le Borinage, elle voyait les femmes uriner dans la rue. Et je pense qu'elle a dû voir ça une fois, et pour elle, c'était devenu la généralité, tu vois. Donc, toutes ces petites choses comme ça qui faisaient que on essayait de s'intégrer, mais en essayant de comprendre les autres, moi, je les ai tout le temps entendues. Et donc, ces petites légendes-là, je les ai utilisées pour construire quelque chose de drôle et de tendre à la fois. Mais bon, c'est vrai qu'au début, dans les années, fin des années, dans les années 50, et même avant, dans les années 40, et puis au début des années 60, il a fallu vraiment faire tout un travail d'entente sociale et politique pour que les Italiens, et il n'y avait pas que la communauté italienne, bien sûr, communauté polonaise, il y en avait d'autres, puissent vraiment s'intégrer à la vie et à la société, à la vie de tous les jours déjà, et puis à la société belge. Je crois qu'au final, 40, 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, l'intégration est plus ou moins, je pense que c'est un exemple d'intégration réussie en tout cas. Moi je crois que oui. Dans notre émission, on a souvent parlé en fait des thèmes liés à l'émigration, ça c'est clair. L'émigration entre-temps a changé. Et malheureusement, d'Italie, nous avons des informations assez tristes. Vis-à-vis, voilà, oui. d'autres histoires en fait qui nous concernent également, parce que l'immigration fait partie de notre histoire. Mais bon, l'histoire change, il y a des réussites, il y a malheureusement aussi des faillites qu'à un moment donné quand même on devrait résoudre, parce qu'ils sont des thèmes qui nous concernent, qui concernent. Absolument, je pense que on peut pas comparer les flux migratoires, en tout cas celui dont on est en train de parler, ouais. Celui des Italiens vers la Belgique et vers certains pays d'Europe, même comme l'Allemagne, je veux dire, dans les années 40, 50, 60, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est incomparable, ça n'est pas du tout les mêmes enjeux, ça n'est pas du tout le même contexte politique. Non. Donc voilà, cette intégration dont on parle, qui est une intégration réussie des Italiens dans la communauté italienne en Belgique, je veux dire, elle est évidemment tout à fait réussie par rapport au drame qui se passe aux portes de la Sicile actuellement. Alors, il y a aussi un thème, et je vais le dire aussi au micro de la radio, tu parles assez bien, même avec des clichés, je pense, et surtout la première scène, la scène d'introduction de l'homosexualité. Mm-hmm. Alors moi, je voulais aussi avoir un peu ton avis, à nouveau vis-à-vis de ce qui se passe en Italie, où par exemple, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas parler, il y a des tabous. Tandis que je trouve que surtout au nord de l'Europe, il y a des tabous qui n'existent plus, heureusement, je dirais. Tu veux nous dire quelque chose sur ça? Mais moi, c'est un thème qui traverse pratiquement, je ne vais pas dire mon œuvre, parce que l'œuvre, c'est quand même un mot, comment vais-je dire, assez ambitieux, et je n'ai pas l'ambition de construire une œuvre, mais dans toutes les pièces que j'ai écrites, l'homosexualité est tout à fait présente. Elle l'a toujours été, parce que pour moi, en tant qu'auteur homosexuel, c'est une donnée capitale de ma vie. Donc je ne peux pas écrire une histoire sans qu'il y ait dans cette histoire des homosexuels. Pourquoi ? Parce que dans ma vie, autour de moi, il y en a. Donc moi, j'essaie de reproduire le plus possible dans mes pièces ce qu'il y a de ma vie. Donc ça ne se pose même pas comme question. Donc il y a des homos comme il y a des hétéros, et il y a des femmes, il y a des hommes. Maintenant, le tabou, j'essaie de le faire sauter par l'humour et par la légèreté. Je veux dire, c'est comme ça que je pense les choses passent le mieux. Chez nous, évidemment, ici en Belgique, nous sommes une société et un pays en tout cas qui a été à l'avant-garde, qui a été comme un laboratoire aussi des textes de loi, puisque le mariage homosexuel a été voté il y a 13 ans maintenant, l'adoption pour les couples de même sexe, pareil, il y a une loi anti-discrimination, donc l'arsenal juridique visant à donner les mêmes droits aux homosexuels qu'aux hétérosexuels, en Belgique, ça a été un peu, comme je le disais, un Eldorado, hein, je veux dire, c'est juridique. Ce n'est pas le cas dans tous les pays d'Europe encore, malheureusement, mais... Voilà, c'est pas pour ça qu'il faut pas. C'est pas parce qu'en Belgique on a obtenu les mêmes droits qu'il faut pas continuer à en parler, qu'il faut pas continuer à défendre le droit des homosexuels et pas seulement des homosexuels, mais des minorités sexuelles en général, parce que entre le texte de loi et la réalité de la rue, il y a encore une grande différence. Tout à fait, je suis d'accord avec toi, il y a quand même pas mal de choses à faire dans tous les sens. Mais si tu es d'accord avec moi, je pense que le protagoniste de ton œuvre est l'amour dans tous les sens. Je veux dire, c'est quand même une célébration à l'amour vers la famille, l'amour vers les amis, l'amour dans les couples. Oui, c'est absolument ça, et je pense que les comédiens qui jouent Chacha Bambino sont parvenus à comprendre ça dans le texte que j'ai écrit. Pourquoi ? Parce que je sens très très fort qu'ils font passer entre eux beaucoup de sentiments. Ces sentiments qui sont vraiment essentiels dans le ciment d'une famille. Dans une famille, on a des attirances, on a des rejets, on n'aime pas tout le monde. Mais voilà, je veux dire, malgré le fait que... une famille, on ne la choisit pas, hein. Ces amis, on les choisit, comme on dit. Mais voilà, il y a quand même des sentiments qui passent à travers tous ces membres. Il y a aussi des sentiments qui sont des sentiments d'ordre familiaux, mais qu'on reproduit avec des gens qui ne sont pas de notre famille, mais qui sont nos amis. Nos amis, parfois, sont aussi importants, voire plus importants que les membres de notre famille. Donc tout ça, ça forme un réseau affectif qui pour moi est très important et qui donne vraiment la force de pouvoir tenir debout. C'est ça qui nous fait aussi tenir debout. C'est la tendresse et l'amour qu'on a pour les autres et que les autres nous donnent, quoi. En échange de rien. Je pense que la tendresse et l'amour, ça doit être gratuit. Je suis d'accord avec toi pleinement. En fait, il y avait une chose quand même qui m'avait frappé, que malgré il s'agit d'une pièce de théâtre, malgré, on était quand même dans une ambiance petite par rapport, par exemple, aux sentiments que tu peux avoir au cinéma. Je pense que ce qui ressort très fort de ta pièce, c'est ce sentiment vers la famille, donc avec toute sa force, donc ses racines, mais aussi ses mystères, parce qu'on ne va pas les dire, mais quand même dans la pièce, il y aura des choses qui seront dites justement pendant une veillée funèbre, qui est aussi en fait le contexte de la pièce même. Parce que je crois sincèrement qu'une famille se construit sur le visible et sur l'invisible. Je crois qu'il y a beaucoup de familles, toutes les familles même je pense, se construisent sur ce qu'on appelle les secrets de famille. Donc il y a, on croit tout connaître de nos parents, on croit tout connaître des membres de notre famille, et pourtant, parfois on vit dans le mensonge, parfois, hein, dans le secret. Et donc, la pièce, elle est aussi construite là-dessus, elle est aussi construite sur un secret de famille qui est pas, voilà, qui va à un moment donné sortir. Parce que je pense aussi que la veillée funèbre n'est pas un moment, innocent. La veillée funèbre, c'est un moment, où les gens et les sont à fleur de peau. Mmh. Et je pense que c'est des moments où on commence à parler, où on commence à se souvenir, on rappelle des bons ou des mauvais souvenirs avec le mort, et tu te souviens de ceci, ah oui, mais ça, c'est ça, on avait fait ça, et on commence un petit peu à rire, ou, et parfois on peut aller jusqu'à se dire, mais, ah oui, mais tu savais pas? Ah ben non, je savais pas. Ah. Mais et puis on en arrive parfois à révéler un secret de famille, et je pense que le moment de la veillée funèbre n'est pas tout à fait un moment innocent. Je suis d'accord avec toi. Malheureusement, j'ai perdu mon grand-père il y a quelque temps, donc en fait j'ai eu le même sentiment, et j'ai revu mon enfance en fait à travers les adultes, je les appellerai ouais. comme ça, que j'avais rencontrés lors en fait du funérail de mon grand-père. Mais venons maintenant à tes personnages, parce qu'il faut dire quand même que, comme tu le disais aussi, ils ont joué la pièce magnifiquement. Donc, est-ce que tu veux nous raconter un peu de ces personnages brièvement? Alors, il y a, c'est en fait une famille avec au centre un personnage qui s'appelle Francesco, que eux appellent dans leur famille Ciccio, qui est un personnage qui a réussi ici en Belgique en tant qu'auteur, en tant que romancier. Et malheureusement, il est mort inopinément, du jour au lendemain. Il a perdu la vie, et on organise, selon la tradition encore italienne, une veillée funèbre autour du corps de Ciccio, et il y a présent, donc autour de sa dépouille, son ami, avec qui il vivait depuis 12 ans, Charles. Il y a son frère Carmelo, qui est un gérant de magasin de carrelage. Il y a sa femme, Nancy, qui fait partie de ces Belges que je connais, hein, je veux dire des femmes belges qui ont épousé des Italiens et qui sont devenus plus Italiens que les Italiens. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Ça, voilà, ça existe. Il y a des femmes comme ça qui sont devenues raides dingues, non seulement de leur mari, mais raides dingues d'un pays, de coutumes et tout, et qui ont appris vraiment à parler l'italien et tout. Et donc Nancy fait partie de ces femmes belges-là qui parlent mieux l'italien que les membres de sa belle famille. Et puis il y a la sœur de Ciccio et de Carmelo qui s'appelle Silvana, et qui elle est une fille qui est plutôt branchée sur tout ce qui est musique latino, salsa, tout ça, et qui donne des cours de Zumba. Et il y a son mari qui est un Belge qu'elle a rencontré ici fatalement, qui s'appelle Eric, et qui est un ouvrier qui travaille à l'usine. Et tous ces gens donc vont se retrouver autour de la dépouille de Ciccio et vont évoquer non seulement sa disparition, mais ce sera aussi l'occasion, comme je le disais à l'instant, d'évoquer des souvenirs. Donc la pièce, elle est construite aussi sur des flashbacks. On va voir Ciccio à l'école, on va voir Ciccio lors du mariage de Silvana et Eric, on va voir Ciccio quand il inaugure sa maison d'hôte dans les Ardennes. Donc ce sera toujours comme ça des moments d'une famille reconstituée, et on revient toujours. Alors, à la veillée funèbre, on revient toujours autour de la dépouille de Ciccio. Et c'est à ce moment-là qu'il va se passer quelque chose, mais ça, on ne peut pas le raconter. Non, non, non, là, on s'arrête. Donc, maintenant, on vient donc à tes spectacles. Je sais que il y a déjà pas mal de billets qui ont été vendus, mais quand même, est-ce que tu peux nous rappeler où tu vas jouer la pièce à Bruxelles et jusqu'à quand? Alors, la pièce, elle va être jouée au Théâtre de la Toison d'Or. C'est dans la galerie de la Toison d'Or à la chaussée d'Ixelles à Ixelles. Et elle va être jouée jusqu'à la fin du mois de mai. Donc, je crois qu'on est sur scène jusqu'au 28 au 29 mai. Donc, il y a un mois donc pour... Il y a un mois pour aller la voir. Il y a un mois pour aller la voir. Donc, on a commencé avant-hier. Donc, je crois que les deux premières semaines sont sold out, c'est rempli, mais après il y a encore des places et donc on a tout le temps pour aller la voir. Mais voilà, il faut ça un petit peu se dépêcher aussi parce que ça va vite, hein. Tout à fait. Alors, je vais rappeler à nos amis auditeurs que la pièce est jouée du mercredi au samedi, donc Voilà. du mercredi jusqu'à la fin du mois de mai. Donc, Sébastien, moi, je suis presque à la fin. Je vais te poser une question aussi habituelle pour Je mes t'écoute. hôtes. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter dont moi, je t'ai pas posé une question maintenant? Ah, bonne question. La question que tu n'as pas posée, mais j'aurais aimé que tu me poses. Est-ce que j'aurais aimé, est-ce que j'aimerais que cette pièce soit jouée en Italie ou être traduite en Italie? Pourquoi pas? Ben, on est dans le Voilà. bon endroit. Je sais pas, c'est un petit fantasme que j'ai parce que je pense que les Italiens qui vivent en Italie aujourd'hui ont un petit peu oublié ne parlons pas de la nouvelle génération, je veux dire des jeunes en Italie ne savent pas du tout qu'il y a eu ce mouvement migratoire d'immigration vers la Belgique. Et je pense que les gens qui vivent en Italie nous ont un petit peu oubliés, nous, les enfants d'immigrés italiens de la deuxième et de la troisième génération. Donc je ne dis pas qu'ils ne savent pas qu'on existe, mais presque. Donc si on pouvait jouer Ciao Ciao Bambino en Italie, ça leur rappellerait quand même que notre histoire, c'est aussi un petit peu la leur. Pourquoi pas? Écoute, moi, j'en parlerai autour de moi et incrociamo le dita, non? Come si dice Sì, dalle incrociamo nostre le parti. dita. Sì, così lo facciamo allora. Grazie a te. Sébastien, je te remercie et je te souhaite bonne chance avec cette pièce et avec toutes tes activités. Merci beaucoup, grazie. A presto. Cari amici e cari amiche del Brussellando, eccoci alla parte seconda. Questa sera una piccola sorpresa per voi, una cosa diversa dal solito, un'intervista a sempre una scrittrice, ma questa volta in diretta e fatta davanti ad altre persone. E quindi sentirete un po' di rumore sottofondo, ma l'argomento vale sicuramente la pena di essere riportato qui tra le onde di Radio Alma, in particolare di Brussellando, e quindi vi lasciamo con questa mezz'ora di chiacchierata con una scrittrice e spero che questo vi possa interessare, vi possa piacere, ma ci farebbe comunque piacere avere il vostro feedback, il vostro ritorno su questa questione, su questa intervista, quindi fatecelo sapere, fateci sentire la vostra voce. Ciao. Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro con la scrittrice Daniela Stornella, che ha scritto questo libro che si chiama La scienza del cuore. Ma prima di iniziare volevo leggere qualcosa, qualche passo. C'erano due donne che non si erano mai incontrate. Una che lo ricordi, l'altra invece che ti chiami Dana. Due vite differenti nel completamento di una sola, la tua. Una era la tua buona stella e l'altra era il tuo sole. La prima ti diede la vita e la seconda ti insegnò come vivere. La prima creò in te il bisogno di amare e la seconda era qui per colmarlo. Una ti diede le radici, l'altra ti offrì il suo nome. La prima ti trasmise i suoi doni, la seconda ti propose un obiettivo. Una fece nascere in te l'emozione, l'altra con nome per angoscia. Una ricevette il tuo primo sorriso, l'altra asciugò le tue lacrime. Una ti aprì un'adozione ed era tutto quello che poteva fare per te. L'altra pregò per avere un bambino e Dio la portò presso di te. Questa bellissima poesia è nella prima pagina del libro di Danilo. Allora, invece di chiedere, come al solito, la presentazione all'autore, mi chiedo perché questa poesia all'inizio Allora, questa poesia all'inizio del libro mi è sembrato posso dire, un tributo dovuto quasi a tutti i bimbi di cuore. Ed è racchiude la vera essenza dell'adozione, vero? Perché ci si interroga sempre su chi si è, chi è la propria mamma, e la figura bisogna per tutta la vita, no? Insomma, sapere chi sono queste due donne, una che si è generato e l'altra che poi in realtà sia cresciuta, si è dato il suo nome. Quindi perché i bimbi possano crescere il più serenamente possibile, ecco, vivere la propria adozione con naturalezza, perché credo che l'adozione vada vissuta come evento naturale della vita. E quindi questa cosa che tu, tra l'altro, mi emoziona sempre, non so se sei io, di un poeta anonimo, non so chi sia, e ripeto, mi emoziona sempre perché è stato il mio primo approccio con l'adozione. In realtà, quando ci siamo recati al nostro ente, che è il SHAI, la psicologa che teneva il corso informativo quel giorno diede a tutti noi, sei il nome di cuore, voglio dire, questa poesia. E quindi l'ho letta, l'ho riletta e da subito mi ha dato emozione, come se fosse stata un po' illuminata la mia strada, quella che sarebbe stata la mia strada. Ecco. Questo libro narra in realtà un periodo molto breve, parte dalle parti di settembre e finisce con novembre, quando c'è l'incontro con la bambina, con Maria José. Questo libro prende due mesi, ma in realtà è un percorso molto più lungo, quello dell'adozione. Mi viene citata una data, sembra che siano passati due anni, e si ritiene anche fortunata. Perché è così lungo? Perché è così difficile? Perché sono così lunghi i tempi della lezione? Allora, sì, diciamo che i tempi sono lunghi. Innanzitutto bisogna fare i conti, io dico sempre un po', con le burocrazie, sia la propria, del proprio paese, sia con le burocrazie poi dei paesi dei bambini di appartenenza. Ma in realtà l'adozione, bisogna prima capire che la tua strada, cioè non ci arrivi così, ci arrivi perché per gradi. Io infatti dico, è difficile pensare di adottare subito, perché ci devi arrivare sicura, si tratta di bambini e quindi l'accoglienza deve essere totale. Nel mio caso è partita da una diagnosi di sterilità, e quindi, però in realtà ce l'avevamo già dentro, perché in famiglia io dico, no, i figli nascono in aeroporto, nel senso che siamo tre cugine in famiglia, entrambe e tutte e tre abbiamo adottato, quindi l'esperienza dell'adozione era già insita in me. L'unica cosa è che nel mio caso si parlava di una sterilità fine causa, e quindi fino a quando tu non sei, cioè ti arrampichi, no? Anche perché tante volte ho detto, uno si sposa o incontra l'uomo della propria vita e quindi dice, ma i figli vengono, è una cosa naturale, no, e poi ti rendi conto che non vengono. E quindi in alcuni casi non si supera questa cosa, la coppia purtroppo può non superarla, e in altri casi però poi ci si rende conto che si può essere genitori in un altro modo, senza nulla togliere alla genitorialità o alla maternità. Quindi all'adozione si arriva lentamente, cioè parte prima da te nell'intimo e poi intraprendi la strada, l'università suosa, dico io, cioè nel senso che se poi a maggior ragione non hai la consapevolezza, tutti gli ostacoli che vengono dopo diventano insormontabili. E quindi lunghi tempi morti, quindi questi tempi di attesa o i colloqui estenuati con gli psicologi diventano, li vedi quasi come una sorta di invasione nella tua vita, nella tua privacy, invece così non è, quindi bisogna veramente accostarsi il più serenamente possibile. E ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, viverlo come evento naturale, non c'è differenza tra figli biologici, figli adottivi, ma nella maniera più assoluta, come figli, appunto, con bambini. Proprio riferimento a quello che stai dicendo adesso, sulla scelta consapevole che uno fa, sui tempi di maturazione di questa scelta. Mi chiedevo questo, qual è la molla, o meglio, com'è lo stimolo, com'è la sensazione che ti fa continuare nonostante le difficoltà? E la domanda più precisamente è questa, è la voglia di avere un bambino e di dare proprio amore a un bambino, o è la voglia di dare dell'amore a un bambino chiunque esso sia? Quindi è la voglia verso se stessi o la voglia di dare qualcosa a qualcun altro? Entrambe le cose. Allora, nasce come desiderio di genitorialità, di avere un figlio, e poi ti rendi conto in itinere che nell'adozione sono i bimbi che accolgono quasi, non dico al contrario, no? Sono i bimbi che accolgono, io dico sempre, io e Marco siamo nati due volte, siamo nati anche il 9 novembre, che è la seconda volta, quando è nata Maria Cusè. Quindi entrambe le cose, sicuramente ecco, la voglia di diventare mamma, il desiderio di diventare mamma. Ecco perché dico, non arrendersi, no? Ci sono tante persone che si arrendono di fronte a questa difficoltà o cadono in forti depressioni. Perché? Si può essere mamma di stesso. Mia cugina Elvira dice sempre, non si è mamma solo con la pancia, che è vero, che è stata diciamo quella che ci ha insegnato tante cose sul campo, voglio dire, no? Avendo lei per primo un po' schierato, aperto le porte all'adozione, la famiglia ci ha insegnato nella quotidianità come si ama, come si possono amare ugualmente i figli adottivi, al punto che non si rende conto nemmeno della differenza del colore della pelle, di nulla, no? Sono tuoi, punto. Ovviamente la canzone favorita è nera, è nata una creatura nera, e in effetti comunque creatura è, al di là di tutto questo è nera. È una canzone sull'amore deve essere anche sì. Sull'amore, certo. Entrando un po' più specifico nel libro, la prima parte narra c'è venuta una telefonata. Una telefonata in cui si parla dell'abbinamento. Dobbiamo fare un colloquio, dobbiamo venire in ufficio. E lì c'è un primo mancamento, cioè un salto di cuore, il cuore è stato per un secondo. E dice così. Qui sta succedendo qualcosa. Poi l'incontro e finalmente l'abbinamento, finalmente anche la data delle carte. Ecco, io vorrei saltare questa parte perché quello che mi piaceva in particolar modo era l'incontro in Colombia, perché la bambina è colombiana. Quindi è uno sradicamento, è un recarsi in un altro paese senza sapere che cosa c'è dall'altra parte, perché non è che uno lo sa prima, va a farsi un viaggio. Quindi in quel momento ci sono 1500 sensazioni che arrivano tutte insieme anche alla sensazione, anche alla certezza di incontrare una bambina e non sapere com'è, che l'ha fatta, eccetera. Quindi volevo che tu spiegassi questi due passaggi. Prima l'arrivo in Colombia, se ci sono questi due passaggi, se si confondono, e poi l'incontro qua. Allora, la Colombia, io ne parlo tanto della Colombia perché è la terra di Maria Cusè. Il nostro, quando abbiamo saputo che la Colombia era il paese di nostra figlia, ci è parso di conoscerla già da sempre, una sensazione strana, ci sembrava veramente di conoscerla e quindi il nostro tempo colombiano ci sembrava luoghi già visti, tutto vero che con gli occhi dell'amore tu hai una percezione un po' diversa del tutto. Ora, l'incontro con la bambina è stato un momento, cioè la nascita, il momento più bello e desiderante delle nostre vite. E in realtà in Colombia ci erano fatta vivere come una festa, perché i bimbi che quando incontrano, ora Maria Cusè era piccolissima, voglio dire che non aveva la memoria in quel momento, ma anche i bimbi più grandi vivono un incontro con i genitori come una vera e propria festa, cioè si nasce quel giorno per la seconda volta. E quindi abbiamo realizzato una specie di piccolo parco, benestar familiare, che è l'ente, una sorta di tribunale dei minori in Colombia, e con palloncini, torta e roba varia, voglio dire, no? Quindi la vera e propria festa. E l'incontro è stato come se Maria Cusè mi fosse appartenuta da sempre. Quando si è aperta la portacina con l'assistente sociale che aveva questa bambina piccola in braccio, me l'ha messa subito tra le braccia, io ho capito che era proprio lei, insomma, mi potevo spiegare, una sensazione forte di appartenenza. A parte il fatto che poi la bimba ha cercato il contatto fisico, ci toccava i volti. C'è da dire che c'è tutto un discorso alle spalle, nel senso che nel momento in cui c'è l'abbinamento con i bambini, gli psicologi chiedono ai genitori di preparare degli album fotografici, in maniera tale che anche i bambini giustamente si rendano conto di chi sono i genitori, perché è un salto nel buio anche per loro, ripeto, non tanto per me la questione, perché non aveva la memoria, 7 mesi sono nulla, no? Rimango, i bambini più grandi hanno la necessità giustamente di vedere i giornali che sono passati mamma e tanti anni fa, e quindi si preparano gli album fotografici con le fotografie. Quanto più piccoli i bambini sono, tanto più enormi devono essere i ritratti dei genitori, quindi noi avevamo preparato dei faccioni mega galattici così che la bambina potesse, e in realtà poi è servito, perché sicuramente poi la psicologa ci ha confermato questa cosa, ma adesso che ci ha riconosciuti, perché ci toccava il volto, quindi è stata una sensazione forte e di gioia al tempo stesso. Ricordo che eravamo anche, cercavamo di non emozionarci, perché avevamo paura che alla bambina passasse un sentimento, cioè potesse piangere, ecco, vedendo piangere noi potesse piangere. Quindi ci siamo veramente fatti forza a cercare di trasmettere la gioia. Faccio una domanda io, ma sicuramente ci saranno anche delle paure che sono associate all'adozione. Magari uno può anche avere paura che questo contatto non si stabilisca. E come si fa? Allora, senti, in realtà sarò una folle io, però non me lo sono mai tolto. Cioè, nel senso che io sapevo che sarebbe venuto naturale. Ecco, fermo restando che so che esistono casi in cui questo contatto non avviene, da subito, ma bisogna naturalmente stabilirlo. Infatti so di coppie che in cui all'inizio, soprattutto i bambini piccoli, hanno respinto i genitori adottivi perché giustamente erano dei perfetti estranei, quindi non riuscivano a riconoscerli. Nel mio caso non è stato così, ecco, io ho dovuto forse un po' fatalista anche nella vita, io da quando ho visto la prima fotografia di Maria Cosè, ho detto lei è mio figlio, come se l'avessi concepita, non mi so spiegare, sembra di che è un po' folle in questo mio essere fatalista. No, non è follia, il cuore ci comanda, e quindi non è assolutamente follia, è assolutamente normale. E proprio approfittando di quello che si stava dicendo orora sulla difficoltà del riconoscimento, perché in realtà il periodo in cui voi rimanete in Colombia per il ritorno della bambina dura circa un mese, se non sbaglio. Quasi due mesi. Ci puoi raccontare, visto che la tua esperienza è stata, tra virgolette, idilliaca, mi concedi, però hai vissuto anche con altre persone in questi 2 mesi. Hai visto altre esperienze, hai visto altre reazioni, ci puoi raccontare qualcosa anche di non così di lì? Infatti, vivendo lì in Colombia 40 giorni, io dico sempre che è stata l'opportunità che mi ha consentito di capire, di toccare con mano l'umanità e quindi i bambini, la sofferenza dei bambini. Quanto più grandi ovviamente i bambini sono, più dolore hanno, perché la realtà, io posso parlare della realtà dell'America Latina, della Colombia in particolare, dove i bimbi vengono abitati, i bambini vengono venduti, i bambini servono per il traffico di organi, questi sono i problemi della Colombia. E nei bimbi grandi c'è proprio il sistema indelebile di questa sofferenza. Quindi all'abbandono, che è la ferita più grande che un individuo possa avere, si somma anche il maltrattamento della propria mamma, o il padre, insomma, relativamente, perché in Colombia le figure paterne non, gli uomini non esistono, esistono queste donne molto giovani, spesso prostitute, che quindi usano e abusano dei propri figli come merce in questo senso. E quindi è doloroso vedere questi bambini avere il peso di queste vesture, e quindi bambini che non sanno cosa è l'amore, non sanno il linguaggio dell'amore, sono bambini che hanno crisi isteriche, bambini che si ribellano, bambini che usano le mani per la difesa, e perché hanno imparato a doversi difendere nella fisicità, e quindi spesso i genitori adottivi sono disperati. Ecco perché in realtà quei 40 giorni vissuti lì servono non solo ai bambini a capire che esiste un'altra realtà, che esistono il papà e la mamma, che adesso, cioè, voglio dire, se la vita, la loro vita fino a quel momento era stata in un certo modo, da quel momento in poi migliora, è la seconda opportunità che la vita stessa ti dà. Ma serve anche ai genitori a imparare a gestire le emozioni dei bambini, che semplice non è, semplice proprio non è. Io sono stata, ripeto, fortunata, in questo senso, perché la bambina era proprio piccola. Non tutti hanno questa fortuna, perché poi anche tornando, voglio dire, a casa, nella vita quotidiana, nel quotidiano si vive il disagio dei bambini, e quindi ecco perché a maggior ragione l'adozione è accoglienza a 360 gradi, e devi pensare a tuo figlio non come adottato, ma come tuo figlio, e quindi devi aiutarlo ad alleviare le sue paure, le sue sofferenze, a capire che quelle reazioni di rabbia sono una richiesta d'aiuto. I bambini ti chiedono l'aiuto, ti chiedono le attenzioni. Io ho visto bambini che, a cui era negato il cibo, questa cosa mi faceva male. Non mancava il superfluo, voglio dire, mancava proprio il cibo. E allora sì, lo scrivo anche, si riempivano il pancino, proprio qui alla fine voltavano, mettevano il pane in tasca, cioè delle scene che... Un conto è raccontarle, un conto è viverle. O bambini che non sapevano usare l'uso delle pedate, o bambini che non sapevano giocare. Ecco, questo ti fa male. Ti fa male vederlo. Perché torno a dire, un conto è sentirne parlare, un conto è viverlo. E allora mi ricordo che lì si era creata poi una piccola comunità, a casa con si bacia, eravamo tante coppie italiane che eravamo lì in attesa dei 40 giorni che i tribunali poi emettessero le sentenze, no? E ci aiutavamo vicendevolmente. E quindi accadeva che i figli di casa Sansebastiano fossero figli di tutti. Questa è una cosa di un'amicizia meravigliosa, che mi auguro che possano durare una vita intera, ecco. In questa tua esperienza dei 40 giorni, visto qualcuno che poi non ha conseguito l'adozione, o secondo te non ha visto qualcuno cui il tribunale ha rifiutato l'adozione? Allora, io no, diciamo, questo non l'ho visto con i miei occhi, però in questi 17 giorni erano stati dati in adozione due bimbi, due fratellini, a due coppie italiane diverse. Questa era una cosa un po' anomala, perché i fratelli non vengono mai separati, ma questa cosa era accaduta perché un anno prima, un pochino meno, una coppia di genitori aveva purtroppo restituito come un vero e proprio pacco questi due bambini al tribunale, dicendo che erano troppo... quasi, non so, da ridere o dare un riso amaro naturalmente, erano troppo monelli. E quindi non volevano questi due bambini. Questa cosa naturalmente ha suscitato dei drammi aperti, insomma, ferite grandissime, perché all'abbandono si è sommato un doppio abbandono. E la bambina che viveva con noi in quei giorni a casa San Sebastiano, non posso mai dimenticare, dava la testa contro il muro, le testate, era irascibile. Quindi sono stati bravissimi i suoi genitori a tranquillizzarla, e nel tempo poi a farle capire che, insomma, la mamma, voglio dire, che ti ama non ti fa del male, ecco, in questo senso. Oppure ho assistito, c'era una bimba che era stata violentata dal padre biologico, e quindi con il papà adottivo aveva un comportamento giustamente di estrema difesa, tipo quando doveva fare i suoi bisognini non voleva mai il padre perché piangeva disperato. Ecco, vedi, quelli sono veramente dei traumi pazzeschi, che però si imparano a superare con i propri figli. Devi non pensare più al fatto che tuo figlio è stato abusato, tuo figlio è stato per forza. Comincia una nuova vita, e quindi bisogna insegnare che le genitori non vengono male. Non è che sia difficile, è difficilissimo, mamma mia, che ferite grandi, che però quella. L'amore ti fa, è vero, sembra un luogo comune, no? Parlare di amore, amore, ma è vero, perché l'amore ti fa veramente rinascere, sentirti amati, ti fa rinascere ti fa vedere bene, ti ridà fiducia in te stesso, sentirti amato, sentito stimato, sentito protetto, queste cose che i bimbi non fanno, perché sono l'idea. Ecco perché poi alla fine nella scrittura io penso che siano anche fortunati a poter nascere due volte. Sì, lavora al linguaggio, quindi, insomma, tutto il linguaggio va preso, non è innato. Ci sono altre cose, il linguaggio corporeo è innato, il contatto è innato, ma imparare a gestire l'amore, a capire l'amore, è un linguaggio va appreso come tutte le lingue. Di questo sono convinto io personalmente. E quindi passano questi 40 giorni, il tribunale dà l'assenso. Lì non voglio svelare cosa c'è nel libro, ma c'è una particolarità nel momento in cui c'è questo incontro con il giudice del tribunale, c'è una domanda e una risposta. Sì, se avrete voglia di attivare il libro, capirete qual è la domanda e la risposta, in attesa sia la domanda sia la risposta. È veramente interessante, carini, devo dire che è rimasto anche sorpreso. C'è la prima domanda che è la prima risposta. Quindi è una cosa molto particolare. Poi però finalmente. Cioè qui finisce il libro, praticamente, finisce il libro con l'arrivo in Italia di Maria José. E però finisce il libro, ma non la mia curiosità. E poi vorrei sapere, visto che ormai qualche tempo è passato da allora, da quel rientro in Italia, vorrei sapere qual è la tua esperienza adesso, che cosa puoi dire in più, che cosa è stato diverso rispetto a quello che pensavi, in meglio o in peggio, che spero, sono convinto che siano cose che pensavi e non sono andate così, altre che pensavi andassero in un certo modo invece non sono andate anche molto meglio, quindi qualcosa, e quindi una specie di, non voglio tirare insomma perché sarebbe assurdo, però raccontarci l'esperienza di questi due anni e mezzo, quasi quattro sì, quasi così, non mi ricordo neanche quasi quattro. Allora, il rientro è stato, alla fine, insomma, come ce lo immaginavamo, voglio dire, dopo il bagno di parenti, amici, eccetera, poi è cominciata la vita quotidiana. Nella vita quotidiana i miei, diciamo, problemi, una parola un po' che è impropria dire problema, ciò che ci faceva star male erano certi comportamenti che la bambina continuava ad avere. Ora, ne parlavamo prima, andava in trance. Quando i bimbi, più i bimbi sono piccoli, più per autofoccolarsi, diciamo, poi spiegato, no? Posteriore di psicologi, lo fanno. Questo dondolio frenetico, soprattutto prima della danna. Ed è per me era un momento di grande smarrimento, vedere gli occhi della bambina, grandi, questi occhi grandi nel vuoto. Allora mi domandavo dove fosse la testa in quel momento, dove fosse lei, perché poi era sudata, sudava e freneticamente. Allora mi ricordo che la mettevo per terra sul suo tappetino, quello gommoso, pieno di giochi, la baciavo all'inverosimile, la stringevo, le davo il contatto fisico e poi si addormentava. Ora questa cosa se ne è spaventato parecchio, perché forse non ero preparata, ecco, ed è cominciato nel rientro. Lì in Colombia non ho dato manifestazioni di questo tipo alla bambina, l'ho fatto quando siamo tornati a casa. Però poi ti devo dire che crescendo è diminuito fino a scomparire del tutto. Sì, fino a scomparire proprio del tutto. Io, diciamo, nella mia vita quotidiana poi i problemi con Maria José non ne abbiamo avuti, perché ora cresce veramente, essendo piccola veramente, cresce con noi. I problemi che potrei avere, sicuramente, voglio dire, sarà, io e mio marito Massimo abbiamo la grande responsabilità di costruirle la storia, quella memoria che non ha. E quindi c'è il dovere nostro di costruirgliele anche in un certo modo per bene, perché poi non possa avere dolore domani. Se volessi chiederti un messaggio da dare a chi vuole adottare, una semplice frase, o anche solo tre aggettivi, da dare come messaggio a chi ci fa ascoltare. Allora, io innanzitutto dico sempre incoraggio alle coppie e dico adottare salva la vita i bambini, innanzitutto. E poi l'adozione è comunque gioia. L'adozione è fonte di arricchimento, perché tu ti confronti con i tuoi figli che vengono da realtà diverse, da paesi diversi, da culture diverse. Ed è sì, un po' l'amore allo stato puro, voglio dire. Dimentichiamoci che chi è mamma è solo con la pancia, non è così. Io spesso, ecco, voglio dire, tante donne che soffrono, che vivono la sterilità come un disagio, ecco, perché come una vergogna, come un disagio, come qualcosa di cui non parlare, che vedono l'adozione come un qualcosa di plastico. No, l'adozione salva la vita a noi genitori, ecco, anche, voglio dire, si è comunque, non cambia niente, non cambia nulla, è un evento naturale. Beh, allora io non posso far altro, visto che siamo in chiusura, a ricordare il titolo del libro, La scelta del cuore, di Daniela Scorrano, edito da Vertigo, e spero che ci siano un sacco di persone all'ascolto che abbiano la voglia, l'intenzione e il coraggio di adottare.